girl sa che non sarà mai come vorrei. Dico che sia normale. Sbatto di far pagine a doppioni. Lo stavo facendo ma è passato tempo. O forse lo facciamo ancora. Ma sembra qualcosa di nuovo, ma non è così. Io che me ne vado se sbaglio, ma quando ci ricasco. Normale che mi sento stanco e sto a letto sempre. So che è qui che mi sente già sa. E non ha bisogno di stare così. Che mi ricordo quelle stesse storie come fossero abitudini. Che stupidi a stare.